In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Il Falco e il Gabbiano presenta... Chuck si vola, di Enrico Ruggeri. L'uomo che cadde sulla terra. Se andate a cercare sul dizionario la parola alieno, troverete che deriva dal latino alienus, appartenente ad altri, estraneo, straniero. Insomma, per alieno si può definire qualsiasi oggetto o soggetto estraneo all'ambiente di riferimento. Non so, in biologia una specie aliena è una pianta o un animale che si trova in un certo habitat diverso dal suo originario. È nel senso più ampio, però... La parola alieno, lo sapete, ha assunto il significato consolidato, forma di vita extraterrestre. Insomma, per noi gli alieni sono, diciamo, i marziani, quelli che vengono da un altro pianeta. E degli alieni si parla molto, si parla di avvistamenti UFO, enti, governi, associazioni scientifiche del mondo che studiano possibilità che esistano altre forme di vita in altri pianeti, in altri sistemi solari, in altre galassie. In realtà io penso quello che pensano gli scienziati, cioè l'universo è talmente grande che sicuramente ci sono altre forme di vita, ma noi non lo sapremo mai perché sono troppo lontane. Altri sostengono che se gli alieni esistessero probabilmente li avremmo già incontrati. Poi ci sono teorie, insomma, un po' più fantasiose, un po' più discutibili, cioè quelle per le quali gli alieni sono già tra di noi, si mimetizzano per non farsi riconoscere, ma vivono e sono ben integrati. Non so qual è la vostra opinione a riguardo, ma comunque noi stiamo per addentrarci nei meandri di questa questione, perché il nostro protagonista di oggi è un alieno. Immaginate voi, insomma, il significato da dare a questo termine, se pensate che sia un vero e proprio extraterrestre oppure solo un personaggio diverso dall'ambiente nel quale si muove. Questo dipende da voi. Noi raccontiamo la storia di un uomo arrivato dal nulla con uno scopo preciso e una missione da compiere. Il suo nome è Thomas Jerome Newton. Lui è l'uomo che cadde sulla Terra. Si sentiva male. Male per il lungo e pericoloso viaggio, male per tutte le medicine, pastiglie, iniezioni, gas inalati e male per tutta l'ansia, l'attesa. Terribilmente male per lo spaventoso fardello del proprio compito. Sapeva da anni che quando fosse venuto il momento, quando fosse finalmente atterrato per cominciare ad attuare il suo progetto tanto complesso, preparato da tanto tempo, si sarebbe sentito così. Quel posto, per quanto l'avesse studiato, era incredibilmente diverso da lui e quella sensazione era travolgente. Non era un uomo, eppure era molto simile a un uomo. Alto 1,90, aveva i capelli biondo-bianchi, come quelli di un albino, e gli occhi di un azzurro pallido. La struttura del corpo era esile, dalle fattezze delicate, le dita lunghe, sottili e la pelle traslucida, priva di peli. Il volto faceva pensare a un elfo e aveva un aspetto molto giovane. Siamo nella metà degli anni 70. Thomas Newton arriva una mattina molto presto a Hanneyville, che è una tranquilla cittadina nel Kentucky, quindi siamo in America. Il suo aspetto è anomalo, non è conosciuto da quelle parti, la gente lo guarda subito con sospetto, nessuno lo disturba, ma certo, diciamo, non empatizza subito. Per conto suo se ne sta in un angolo, aspetta l'apertura della gioielleria del paese e vende una fede nuziale sulla quale è inciso il suo nome e una dedica della moglie. Se ne va con i soldi in contanti. In realtà lui di quegli anelli ne ha diverse centinaia. I soldi che ricava dalla vendita di questi anelli gli servono per andare a New York. Lì lo attende un compito molto importante. I count the corpses on my left. I find I'm not so tidy. So I better get away, better make it today. I've cut 23 down since Friday. But I can't control it. My face is drawn, my instinct still emotes it. I slash them cold, I kill them dead. Oliver Farnsworth è un avvocato di grido di New York. Lui si occupa di brevetti, cura la loro registrazione e poi verifica che non ci siano utilizzi anomali o illegali. Insomma, è un tramite tra le aziende e i titolari dei brevetti, e questi lo ripagano con una percentuale sui diritti. Insomma, è un uomo facoltoso, ha un bellissimo ufficio in centro, è un uomo arrivato. E quest'uomo non si aspetterebbe mai la visita di un personaggio così stravagante e pieno di sorprese come il nostro signor Thomas Jerome Newton. Arriva una sera quest'uomo strano, arriva nel suo ufficio legale e questo incontro cambierà per sempre la vita di Oliver. Cos'è, una specie di corruzione? No, io pago il suo tempo sin da adesso. Voglio 10 delle sue ore a $1,000 l'ora. Cosa vuole esattamente? Io voglio un legale che sia esperto in brevetti. Se è così. Ecco. Elettronica. Lo legga, prego. Incredibile. Non posso crederci. Lei ha qua 9 brevetti rivoluzionari. 9! E sono brevetti di base. Sa cosa significa? Sì, credo di sì. È assurdo. Questo significa che lei potrebbe annientare la RCA, la Eastman Kodak, la DuPont, le più grandi multinazionali. L'avvocato è scioccato, non ha mai visto niente di simile a quello che gli sta sottoponendo Newton. Brevetti per la raffinazione del petrolio a costo zero, senza scarti, una televisione tridimensionale, una pellicola fotografica che si sviluppa da sola, insomma, innovazioni talmente rivoluzionarie da sembrare provenire da un altro pianeta molto più avanti di noi nello sviluppo tecnologico. Newton propone all'avvocato di occuparsi di quei brevetti, di occuparsi dei suoi affari, di farli da tramite in tutto e per tutto, e naturalmente a fronte di un guadagno enorme l'avvocato non può far altro che accettare questi introiti che definirei galattici. Newton fonda una società per la produzione, per la commercializzazione dei nuovi prodotti, la World Enterprises Corporation, e i proventi di questa società dovrebbero girarsi su cifre tipo alcuni milioni di dollari all'anno, e per l'epoca sono veramente cifre altissime. L'avvocato Oliver Farnsworth è stranito non solo per la stranezza delle invenzioni di Newton, ma anche proprio per lui. Newton non gli sembra il classico investitore a caccia di grandi guadagni, insomma non è come i clienti ai quali lui è abituato di solito. È un personaggio particolare, sembra privo di interessi terreni, non mangia quasi niente, è magrissimo al limite dell'anoressia, non beve liquori, vino, bibite, beve solo enormi bicchieroni d'acqua con ghiaccio e li assapora come se fosse un nettare di vino. Non dimostra interesse per le donne, non ha stimoli particolari, è un uomo molto misterioso e lui non rivela all'avvocato cosa intenda farne di tutti quei soldi che guadagnerà grazie ai suoi brevetti. Nel frattempo c'è qualcuno che comincia a studiarli quei brevetti, li trova al limite della fantascienza, non sembrano essere il prodotto di una tecnologia conosciuta sulla Terra. Meant to despise. Will time make man more wise? Yeah. Within my lonely brain, my eyes just hurt my brain. But will it seem the same? Not tomorrow. Will I be older? Not tomorrow. Maybe I'll sell. C'è un professore di chimica dell'Università di Chicago, Nathan Bryce, che è un grande appassionato di fotografia ed è molto incuriosito da questo nuovo procedimento di sviluppo delle foto prodotto da Newton, dalla World Enterprises Corporation. Si basa su un principio chimico totalmente sconosciuto, comincia a studiarlo e non ne viene a capo, non capisce i fondamenti su cui si basa questa nuova invenzione e allora chiede al suo responsabile di dipartimento all'università di poter effettuare ricerche più approfondite, finanziate dall'istituto. Il capo gli nega qualsiasi tipo di aiuto. E siccome lui sta conducendo nell'università uno studio molto complicato sulla conservazione dell'energia, però ha pochi fondi e nessuno sta credendo in lui, comincia a meditare di abbandonare il suo lavoro attuale, di fare domanda di assunzione proprio a Newton per entrare nella World Enterprises. Newton, peraltro, in questo momento è irreperibile, le questioni della società sono in mano all'avvocato Farnsworth, lui si definisce fila, va a stare a Louisville nel Kentucky, alloggia in un hotel, l'hotel Artesia. Qui però ha una disavventura molto grave mentre è in ascensore. No, preferisco andare a piedi. Sono 5 piani. Che è successo? Vada avanti. Accidenti! Oddio, sta male. Su, coraggio, coraggio. Cerchi di tirarsi su. Signore, va meglio ora, va meglio. Devo essere svenuto. Svenuto? Pensavo che fosse morto. Potrei avere qualche cosa da bere. Vorrei un bicchiere di... Gin? Un bel bicchiere di gin e tonic. Con 4 cubetti di ghiaccio e una fetta di limone. Solo un bicchiere d'acqua. La cameriera Mary Lou salva Newton, lo cura, tra i due nasce un'amicizia, forse qualcosa di più, per quanto si possa dire di più parlando di Thomas Jerome Newton, un personaggio particolare che sembra totalmente anaffettivo. Mary Lou, una ragazza di cuore, si affeziona a quell'uomo che sembra così fragile, quell'uomo che beve solo acqua mentre a lei non dispiace il gin, per esempio. Lei beve acqua come se le piacesse. Uno di questi giorni deve provare questo. Non è che sto parlando troppo. Credo che forse dovrei andare. Oh, signore, sono già 3:00. Scommetto che è stanco. Bene, adesso finisco questo e poi... E poi? E poi penso che ne berrò un altro bicchiere. Lo sa, lei mi piace, signore. Davvero? Che cosa fa? Per vivere, intendo. Oh, sono di passaggio. Oh, fa il viaggiatore. Io penso che lei non mangia abbastanza. E se non le dispiace che glielo dico. Lei è troppo magro. È troppo magro. Mary Lou è affascinata da Newton, è attirata dalle sue stranezze. E poi c'è un'altra cosa da dire: lei è una donna ignorante, non ha potuto studiare e per la prima volta si sente importante per qualcuno, perché Newton da un lato ha delle conoscenze incredibili che nessun uomo ha, però dall'altro ha delle lacune clamorose e sembra che lui non conosca cose basilari della vita e della società, e lei, divertita, gliele insegna. Insomma, è uno scambio che sta diventando qualcosa di affettivo. Mary Lou è diventata la connessione tra Newton e il mondo che lo circonda. Monday morning feels so bad. Everybody seems to like me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes to show. We'll be right back. Thomas Newton si trasferisce a casa di Mary Lou, compra una gran quantità di televisori, li sintonizza su tutti i canali statunitensi, usa questo stratagemma per apprendere il più in fretta possibile tutte le nozioni di base che non possiede. C'è qualcosa che Newton sta cercando di capire, di trovare, soprattutto è evidente che lui ha in mente un progetto, qualcosa di grandioso che costa moltissimi soldi, ecco perché si informa in continuazione del suo patrimonio. Abbiamo capito, non è un uomo avido, non è un accumulatore seriale, non gli interessano i soldi in quanto tali, visto che vive in maniera molto dimessa, non mangia, non esce, sta tutto il giorno a letto a guardare programmi televisivi, i soldi gli servono per ben altro. Ma sono 6 le compagnie associate alla World Enterprises. Io non so quanto lei voglia esatte le cifre, ma deve capirmi, cambiano di ora in ora. Noi riceviamo l'estratto conto bancario per ogni compagnia 2 volte al giorno. Voglio il conto totale per domani. Non importa se sono 50 milioni di dollari in più o in meno. Tutto il mercato finanziario è stato scosso dalla irruenza con la quale la World Enterprises si è imposta sul mercato. Vede, Mr. Newton, più mantiene segreta la sua vita privata, più aumenta l'interesse della gente. Pensi che persino dall'Università di Chicago ci hanno scritto, e più di una volta. Perché non gli risponde, signor Farnsworth? Deve essere gentile con tutti. La mia vita non è segreta, signor Farnsworth, è privata. E noi sappiamo chi c'è dietro le lettere che arrivano alla World Enterprises Corporation da Chicago, dall'Università di Chicago. Sono lettere che ha mandato il professor Nathan Bryce. Lui non riesce più a frenare la sua curiosità, vuole sapere di più su quei progetti rivoluzionari. Bryce vorrebbe poter lavorare per la società di Newton, l'abbiamo già detto, ma lui non conosce nulla di questa società, mentre, e al contrario, Newton sa molto bene chi è Bryce, conosce le sue ricerche per la conservazione dell'energia, è molto interessato ai suoi studi, perché questi studi potrebbero servirgli per realizzare il suo misterioso progetto. Nathan Bryce non lo sa ancora, ma sta per ricevere una proposta di lavoro che cambierà il corso della sua vita. Sta per conoscere il misterioso Thomas Jerome Newton. Chuck si vola. L'uomo che cadde sulla Terra. Il nostro protagonista di oggi è Thomas Jerome Newton, un personaggio particolarissimo, misterioso, con una fisicità che potremmo appunto definire quasi aliena, magrissimo, occhi chiari, capelli bianchi pur essendo molto giovane, uno che non mangia mai e continua a bere enormi bicchieri di acqua ghiacciata. E questo Newton compare all'improvviso sulla scena internazionale, fonda la World Enterprises Corporation, società con sede a New York, e con questa società produce una serie di innovazioni scientifiche rivoluzionarie per il nostro pianeta nel campo dell'elettronica, della chimica, della raffinazione del petrolio, e ha uno scopo: guadagnare molti milioni di dollari. Questi soldi però gli servono non per fare la bella vita, semplicemente per creare un progetto che per il momento è misterioso. E nel nostro racconto siamo arrivati a una svolta importante nella vicenda di Newton. Si è trasferito a vivere sulle rive di un lago nei pressi di Haneyville in Kentucky, assieme a Mary Lou, che è una cameriera che gli ha salvato la vita e con la quale ha iniziato una relazione. Newton crea un centro di ricerca e di sviluppo avanzatissimo nel quale ha intenzione di portare a termine questo importantissimo progetto misterioso, questo progetto segreto. Decide per fare questo di assumere il professor Nathan Bryce, che da un tempo è interessato alle tecnologie della World Enterprises. Per un anno intero mi sono concentrato su due cose: le donne e la World Enterprises. Beh, devo ammettere che cominciai a pensare che il direttore dell'istituto aveva ragione, dato che la World Enterprises era molto lenta ed evasiva nel rispondere alle mie più che insistenti lettere. Improvvisamente ho ricevuto questa lettera da Farnsworth. Era estremamente interessato ai miei studi sulla conservazione dell'energia. Lo stipendio offertomi è terribilmente alto, almeno 3 volte più di quanto avessi sperato. La prima cosa che ho fatto è comprarmi una fuoriserie straniera. Questo ha sconvolto il rettore più di qualsiasi altra cosa. L'ultima volta che io ricordi di essermi sentito tanto eccitato è stato 10 anni fa. quando facevo esperimenti sulla fotografia al calore. Non portai a termine quegli studi perché l'Accademia si era messa di mezzo. Ma questa volta lo sentivo. Mi sarebbero state date tutte le possibilità. E fino a questo momento il progetto di Newton è rimasto un segreto. Un giorno però lui convoca l'avvocato Farnsworth e gli rivela che avrà bisogno di tutti i ricavati della sua società per finanziare un programma spaziale, il lancio di una navicella destinata a viaggiare nelle galassie. Ecco il motivo per il quale ha voluto assumere Bryce. Sì, perché una delle problematiche più difficili da risolvere è proprio la questione di come immagazzinare energia sufficiente per compiere un viaggio di proporzioni enormi, limitate. Adesso sembra tutto più chiaro, almeno si spiega intanto il perché di quella necessità così disperata di denaro, ma anche l'interesse di Newton per il professor Bryce. Ma anche se Farnsworth insiste, non riesce a farsi rivelare né la destinazione del viaggio spaziale né la motivazione. Newton mantiene il più assoluto riserbo su questo progetto. È un progetto però che lo assorbe totalmente, lo sta rendendo sempre più agitato e nervoso. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just smoke a like a big monkey bird. Newton non sembra stare più molto bene, più passano i giorni più deperisce, è magro, filiforme, sembra soffrire per la gravità terrestre, come se dovesse portare a ogni movimento un peso enorme con sé. E questo suo malessere lo sta rendendo nervoso, lo è anche con Mary Lou, e diventa ossessivo nei confronti del suo progetto, vuole realizzarlo in tempi brevissimi. Finalmente incontra Bryce. Dottor Bryce, sono Newton. Ci siamo già visti. Come sta andando? Ha già trovato gli elementi? Non ancora. No, in realtà... Bene, sono qui per aiutarla. Io credo che noi abbiamo un interesse in comune, Mr. Newton, la fotografia. Il mio interesse è l'energia, dottor Bryce. Conservazione dell'energia. Questa è una specie di capsula spaziale, giusto? Ma per far che? Una sonda solare? Qualcosa che deve andare molto più lontano. Gliel'ho voluto mostrare perché io apprezzo il suo contributo al mio lavoro. Se almeno sapessi che tipo di contributo. Conservazione dell'energia e suo trasferimento. Forse è la chiave del nostro progetto. Qualcosa mi preoccupa è il programma di rientro. Non ci pensi? Eh sì, Newton non si preoccupa del programma di rientro. Cominciamo a intuire perché il suo comportamento è particolare. Bryce teme che lui non gli stia dicendo tutta la verità, che il suo progetto possa essere, non so, una terribile arma segreta, magari un'arma di distruzione di massa. Decide di indagare sul nuovo datore di lavoro. Con uno stratagemma riesce a fare una radiografia, scopre con orrore che la sua struttura ossea è completamente diversa da quella umana. E anche Mary Lou comincia a avere dei sospetti su Newton, perché è sempre più strano. Un giorno le comunica che ha intenzione di partire. Potrai rimanere qui, la casa è tua. Ti ho aperto anche un conto in banca. Io non voglio la casa e neanche il tuo denaro. Io voglio solamente stare con te. Non posso spiegarti certe cose, ma se rimango qui, io morirò. Non dire sciocchezza. Portami con te, ci penserò io a non farti morire. Tommy? Tommy? Tommy? Di, ti senti bene? Tommy! Fammi entrare! Si rivela nella sua vera natura, è un alieno, è un extraterrestre, proviene dal lontanissimo pianeta Altea, ha un motivo grave che lo ha spinto a attraversare le galassie e arrivare fino sulla Terra, ha una missione vitale per la salvezza della sua gente, perché il suo popolo sta rischiando la totale distruzione. Chuck si vola. L'uomo che cadde sulla Terra. Thomas Newton si è finalmente rivelato a Mary Lou. Lui non è un essere umano, è un alieno, è un extraterrestre nella sua forma naturale, senza quel camuffamento che lo rende simile a un uomo. Lui è completamente glabro, non ha peli nel corpo, ha gli occhi come quelli delle tigri, gialli con una lunga fessura verticale al posto della pupilla. La struttura del corpo è esile, allungata, alla pelle viscida, quasi trasparente. C'erano anche altre differenze. Le unghie, ad esempio, le aveva dovute mettere artificiali, perché lui per natura non le possedeva. I piedi avevano solo 4 dita, era privo di appendice e non aveva nemmeno i denti del giudizio. Non gli sarebbe potuto venire il singhiozzo, perché tutto il suo apparato respiratorio era estremamente solido. Nonostante una notevole altezza, oltre 1,90 m, pesava solo 45 kg. E a questo punto Newton decide di confidarsi anche col professor Bryce, che è l'unica altra persona della quale lui si fida, oltre a Mary Lou. Salve, Mr. Newton. Salve, dottor Bryce. Sono felice che lei sia venuto. Lo speravo proprio. So che si sta facendo un sacco di domande su di me. Io posso vedere il flash di una macchina raggi X. È accecante. Perché è venuto qui? Da dove vengo c'è una terribile siccità. Abbiamo visto il vostro pianeta in televisione. Abbiamo visto l'acqua. Pensi che il vostro pianeta lo chiamiamo il pianeta d'acqua. E avete visto tutto in televisione. Ma esattamente da dove viene? Beh, io non sono un astronomo, ma da qualche parte laggiù. Ecco il motivo della presenza di Newton sulla Terra. È arrivato dal pianeta Altea nel nostro mondo perché vuole salvare il suo mondo minacciato da questa terribile siccità che lo sta uccidendo. Chissà, magari un riscaldamento del pianeta, per dire. È stata una guerra atomica in realtà, distruggere le riserve idriche. Insomma, Newton sta cercando una soluzione al loro problema drammatico. A casa lui ha lasciato moglie, figli, deve trovare il modo di ridare acqua al suo pianeta oppure di creare un ponte di comunicazione tra i due mondi per trasportare i superstiti sulla Terra. Con l'aiuto di Bryce il programma spaziale giunge al termine, l'astronave è pronta per il lancio dal centro di ricerche del Kentucky, però il volume d'affari delle società di Newton è enorme e rappresenta una minaccia per i grandi trust, proprio come aveva predetto l'avvocato Farnsworth. E allora si mobilita la CIA che vuole sminuire l'immagine di Newton. Insomma, il lancio spaziale viene bloccato, l'alieno viene rapito. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solar set. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. Newton ormai è un personaggio troppo scomodo, chiunque lui sia, lui ha destabilizzato il mercato è quello che conta, è andato a toccare equilibri economici che non andavano neanche sfiorati, a lui dei soldi non importa nulla, la sua motivazione è un'altra e nessuno in questo senso gli dà retta, l'avvocato Farnsworth sta tentando di ribellarsi a questa ingerenza della CIA e verrà ucciso. Newton verrà imprigionato per anni in un luogo segreto, sottoposto a una lunga serie di esperimenti. Buonasera, Mr. Newton. Vuol togliersi la giacca del pigiama, prego. Quanto dovrò restare ancora in questo posto? Non ne ho idea. Probabilmente dipenderà dal perché è qui. Vi ho già detto tutto. Hai capito. Mi farete ancora male. E ora? No, no, non le farò del male. Che bene. Si fidi di me, eh? Signorina. Si mette in punta di piedi, trattenga il respiro, così, fermo. Oh. Fermo. Ve l'ho già detto, sono venuto solo. Solo, e nessuno mi ha visto. Passano molti anni, tutti attorno a lui stanno invecchiando, Newton rimane sempre giovane ma è minato nella mente, nel fisico, anche perché per sopportare la reclusione si è dato al bere, è diventato un alcolizzato. Bryce e Mary Lou si sono messi assieme, sono molto invecchiati, continuano a pensare a Newton con il rimorso di non essere riusciti a aiutarlo, poi però... inaspettatamente Newton riesce a fuggire dalla sua prigione e incontra proprio Bryce. Mr. Newton. Nathan Bryce. Esatto. Posso sedermi? Si accomodi. Che strano, stavo proprio pensando a lei l'altro giorno. Si sente amareggiato per qualcosa? Amareggiato. Forse l'avremmo trattata nello stesso modo se fosse venuto lei da noi. Non c'è possibilità, allora. Per cosa? Secondo me c'è. Lei è uno scienziato, dottor Bryce. Hm? E sa che c'è sempre una possibilità. C'è sempre una possibilità. E nonostante tutto, il messaggio finale di Thomas Jerome Newton è un messaggio di speranza. Ci lascia con una visione positiva, indulgente nei confronti del genere umano che si è dimostrato avido, insensibile, che gli ha rovinato l'esistenza, che ha distrutto il suo progetto e il suo perdono, la sua comprensione, la sua pietas, è probabilmente il colpo d'ala più grandioso. È stato capace di guardare dall'altra parte, ha sconfitto la miopia di quelli che non hanno saputo vedere in lui qualcuno che semplicemente aveva bisogno di aiuto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.